24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7 e 21 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua, 24 mattino e radio24.it, siamo in diretta fino alle 9. Come di consueto, il nostro sondaggio di oggi, parliamo di partito degli immigrati, perché a Milano gli immigrati sono pronti a fare una lista civica per presentarsi alle prossime elezioni comunali. C'è già un partito degli immigrati, ci sono già esperienze del genere in Italia. Vi chiediamo: un partito degli immigrati secondo voi può favorire una strada per l'integrazione? Votate su radio24.it nell'home page, ci trovate bianco o nero. Approfondiremo poi alle 8.30 e ora la lettura dei giornali. In primo piano. Mercoledì 6 ottobre, mercati sprinta spese del dollaro, questa è l'apertura del Sole 24 Ore sul finanza, sulle borse, Tokyo riduce i tassi a zero e stampa yen, per il Fondo Monetario Internazionale sale il rischio debito sovrano, mentre le aperture dei giornali generalisti sono quasi tutte dedicate al fatto politico del giorno, vale a dire la nascita del partito di Fini. Fini lancia il partito, sfida Berlusconi per il Corriere. Il partito di Fini pronti al voto per Repubblica, uguale la stampa. Libero, Silvio rischia grosso il nuovo partito di Fini, mentre per il manifesto c'è un bocchino in prima pagina che suona una vuvuzela, l'importante è finire. Vedremo altre aperture. Io in questa prima segnalazione di rassegna stampa voglio partire però da un settimanale e anche però dai quotidiani, che danno ampio spazio a un personaggio che è molto popolare in Italia e nel mondo, un grande cantante, Tiziano Ferro. Tiziano Ferro oggi conquista la prima pagina di Vanity Fair, ma anche tutte le prime pagine dei giornali come notizia degli spettacoli. Esce con un libro, 30 anni e una chiacchierata con papà, e per la prima volta confessa e dice, si apre e dice di essere omosessuale. Cosa succederà dopo? Mi chiede Tiziano Ferro, così inizia l'intervista a Vanity Fair. Niente sarà più come prima. Inizia così l'intervista nella quale Tiziano Ferro racconta su Vanity Fair appunto il suo rapporto molto tormentato con l'omosessualità, il fatto di aver avuto fidanzate, il fatto che mi piacessero le donne, il fatto che per anni non ho parlato con nessuno. Anche su Repubblica Tiziano Ferro fa un'intervista a Gino Castaldo, ora mi sento libero di essere omosessuale. Per anni non ne ho parlato con nessuno, volevo lasciare addirittura la musica, finché un giorno sono andato da mio papà, ne ho parlato e lui mi ha detto, se lasci per questa cosa è una stupidaggine, se lasci per cose tipo l'omosessualità fai un grande errore, il problema era mio, ero io che lo vivevo come tale, non certo chi mi amava. Da lì insomma l'inizio di un lungo percorso. Ora mi sento libero di essere omosessuale, ma un'intera pagina anche sul Corriere della Sera. Tiziano Ferro, credevo che l'omosessualità fosse una condanna e pensai di lasciare la musica. E il Corriere della Sera pubblica anche l'anticipazione del suo libro, l'introduzione del suo libro, un libro verità nel quale racconta 15 anni di vita, ma soprattutto 15 anni di tormenti. Come dice in questa intervista a Repubblica Gino Castaldo, ho fatto una vita d'inferno, anni orribili, è possibile e come? Certi percorsi vanno fatti fino in fondo, detto adesso sembra quasi ovvio, ma quando ho riletto i miei diari e non l'avevo mai fatto in tutti questi anni, sono rimasto sconvolto. Tiziano Ferro, beh, a proposito di confessioni, voglio dire, visto che siamo in tema, un altro settimanale, Chi, che però è rilanciato da Il Giornale, c'è Vendola, Niki Vendola, che si confessa anche lui, parla di cose molto intime, del suo orecchino, del rosario di legno scuro da cui non si separa mai, e poi del suo compagno canadese, viviamo insieme a Terlizzi da anni, siamo una coppia tranquilla, morigerata, e poi il sogno, avere un figlio. Mi manca un figlio, non nascondo che scapperei subito ad adottare un piccolo abbandonato in Kosovo. Niki Vendola si racconta, sto con un canadese, così su Il Giornale. Vabbè, oggi inizia così la rassegna stampa. pubblicità e meteo e poi continuiamo riprendendo da chi? Da Fini e dalla politica. In primo piano. Alle 7:32 minuti, eccoci qua ancora nel continuare la lettura dei quotidiani in edicola e dunque veniamo alla politica. Il fatto politico del giorno di ieri certamente è il lancio del partito, che poi non sarà un vero partito ma un movimento, come è stato identificato, di Fini. Prende un po' le prime pagine di tutti i giornali. L'obiettivo: fare l'ago della bilancia, racconta Fabio Martini a pagina 3 della Stampa. Future Libertà si presenta come un movimento, ma nel PDL temono diventi una spina nel fianco. Vabbè, c'è il solito Riccardo Barenghi, la Iena, a pagina 3 della Stampa, per l'appunto. Nasce il partito di Fini, siamo alle comiche iniziali. Tra l'altro oggi ci sarà, ieri lo annunciavamo, un altro importante momento, quello il vertice tra PDL, Lega e anche, immagino, i finiani, un vertice di maggioranza convocato per questa mattina. Allora, su tutti i giornali i retroscenisti della politica raccontano che il punto essenziale è quello della legge elettorale. Il Giornale è il più esplicito e lo mette così: complotto per rovesciare il premier. Parte già il primo siluro di Fini, ne racconta Vittorio Macioce in prima pagina. Questo è Fini. L'obiettivo: battezzare il nuovo partito, stringere un'alleanza con Casini e Bersani, far saltare il banco al Senato, usare la riforma elettorale per cacciare Berlusconi. Questo è Fini. Eccolo, sono giorni che sta scarabocchiando con i nuovi alleati una bozza di legge per cambiare le regole del gioco. Quello è il documento su cui si spera di scrivere il ribaltone. Federalismo? No. Università? Forse. Giustizia? Mai. Quello che gli interessa? Subito. Fini, spalleggiato da PD e UDC, scrive così una lettera a Donato Bruno, presidente degli affari costituzionali di Montecitorio. Cosa c'è scritto? Sbrigati. Fini chiede a Bruno di incardinare il dibattito sulla legge elettorale per la motivazione ufficiale, che è questa: l'alto numero di provvedimenti in materia già assegnati in commissione. L'urgenza in realtà è un'altra: far partire il ribaltone. Allora, se non siete avvezzi alla politica, il che, guardate, non vi perdete granché, è un qualcosa di un po' tecnico da capire, ma tutti i giornali vi puntano, cioè l'obiettivo, secondo appunto in retroscena, sarebbe quello di puntare su prendere dei senatori al PDL e dunque farli passare ai finiani, far capire che insomma anche al Senato senza i voti dei finiani c'è il rischio di una maggioranza di governo che non c'è più. Poi, nel caso di crisi elettorale, fare un governo tecnico, il tempo necessario per cambiare la legge elettorale, cosa che vuole fare Fini, e poi andare alle urne. La pistola puntata della legge elettorale è anche il retroscena di Amedeo La Mattina, infatti a pagina 4 della Stampa, e non è un caso che in un'intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Franco Frattini, che in questo caso fa un'intervista come dirigente di spicco del Popolo della Libertà, in questa intervista a Lorenzo Fuccaro, eccolo qui: restino leali al governo e se Fini parla di legge elettorale mina l'alleanza. Avete capito, insomma, che si gioca molto su questo tema ora della legge elettorale. Prima di arrivare alla legge elettorale, dice Frattini in questa intervista, desidero puntualizzare che quando parlavo di responsabilità istituzionale dei finiani, intendevo riferirmi all'esigenza di riaffermare la stabilità di governo che Camera e Senato hanno ribadito votando la fiducia all'esecutivo con una maggioranza più ampia di quella del 2008. E poi eccole qui le provocazioni. Se un esponente di Future Libertà dice troviamo una maggioranza per fare una nuova legge elettorale, c'è un diluvio di repliche che enfatizzano quella che altrimenti sarebbe una battuta isolata. E noi andiamo a incendiare la scena dando un ruolo a personaggi che non godono la fiducia della stragrande maggioranza di deputati e senatori di Futuro e Libertà. Quindi, diciamolo, chi promuove queste discussioni anche sulla legge elettorale mostra un'assoluta mancanza di senso di responsabilità verso il Paese. Insomma, il dato di fatto è che è nato il nuovo partito, il nuovo movimento di Fini, ma è tutto un gran movimento nella politica, è tutto un gran movimento, tutto grandi discorsi, grandi interviste, grandi scenari. Addirittura il Corriere della Sera, secondo Francesco Verderami, ieri il ministro Tremonti, il super ministro come è definito, ha lanciato un segnale molto chiaro. Ne parla pagina 3 Francesco Verderami, sempre tra il retroscena della politica. Tra i due litiganti ieri, cioè i due litiganti, sapete ormai chi sono, Fini e Berlusconi, si è messo in mezzo il placido Tremonti, che senza spendere una parola nemmeno sul duello e sui duellanti ha fatto intendere come la pensa. Ecco come avrebbe fatto intendere, secondo Francesco Verderami. A un certo punto ha preso posizione dicendo, illustrando l'andamento della crisi, ha avvisato che la situazione potrebbe tornare a complicarsi a causa delle condizioni in cui versano alcuni paesi posizionati sull'Atlantico, Irlanda e Portogallo. Per Francesco Verderami è un chiaro segnale, tutti hanno colto dietro il dato tecnico un chiaro segnale politico, cioè entra Tremonti a disfida, attenti all'economia, può peggiorare. Ecco il chiaro segnale politico, aver fatto cenno all'Irlanda, al Portogallo, alla situazione di questi paesi che rischiano, come dire, attenzione a litigare troppo, perché c'è l'economia che poi ci va di mezzo. Volete l'altro retroscena che oggi campeggia su tutti i giornali, dalla prima pagina del Corriere a Libero, che ho in mano, con Salvatore Dama? La linea dettata dal Cavaliere, da Berlusconi ai suoi, è questa: fate finta che non si va al voto. Poi magari si va al voto, ma la linea è: non diamo l'impressione di seguire la Lega, di seguire Maroni, andiamo avanti, diamo l'impressione almeno di volerlo, perché non bisogna dare l'impressione che si va a votare subito. Perciò Silvio Berlusconi, scrive Salvatore Dama su Libero, si arrabbia di fronte al profluvio di dichiarazioni firmate da ministri e parlamentari del Popolo della Libertà in cui è sottintesa l'inevitabilità del voto anticipato. D'altra parte, che però sia così è dato dal fatto che, mentre da una parte la linea data da Berlusconi sarebbe questa, dall'altra parte però che cosa ha riunito? I team della libertà. Ieri ha ascoltato Denis Verdini, che gli ha prospettato questo progetto dei team della libertà, coordinati dal ministro Brambilla e da un onorevole Mario Mantovani, che dovrebbero già muoversi per organizzare in tutte le sezioni elettorali dei testimoni per cercare di capire per ogni collegio elettorale, cercare di far sapere quello che ha fatto il governo e cercare di vigilare su un eventuale nuovo voto. Dunque sembra che da una parte tutto muova verso il voto, anche se le dichiarazioni, si sa, i tempi poi della politica sono un po' più lenti di quello che la semplicità detterebbe. Tanto che, ripeto, nel profluvio di dichiarazioni, interviste, eccetera, i due articoli di politica più interessanti di oggi sono questi. Come ieri avevo letto quello del Sole sulle pensioni dei senatori e dei deputati. I due migliori articoli, secondo me, oggi di politica sono Mattia Feltri sulla Stampa. Fa il calcolo, altro che bipartitismo, e questo è un tema che avevamo già affrontato, dal 94 a oggi, sapete quanti partiti hanno avuto rappresentanza alla Camera o al Senato, con la nascita ovviamente di Future Libertà, se si vuole considerare un partito? 82. Ci avevano detto che andavamo verso il bipartitismo. Seconda Repubblica, l'irresistibile carica di 82 partiti. Mattia Feltri, a pagina, prima pagina e poi pagina 7, un'intera pagina della Stampa. Ci sono partiti che sinceramente, ve lo ricordo, la Rosa Bianca, l'Italia di Mezzo di Follini, Sinistra Critica di Turigliatto, questi sono nati nella legislatura Prodi. Italiani nel Mondo, Partito Democratico Meridionale. Poi nell'ultima legislatura apprendo ora che ci sono i Repubblicani Regionalisti Popolari. Vabbè, poi c'è Noi Sud, Io Sud. Ah sì, la differenza Noi Sud, Io Sud, perché è nata Io Sud e Berlusconi ha detto agli altri, lei, la Poli Bortoni, ha fatto Io Sud, voi siete in tanti, fate Noi Sud. Quindi c'è rappresentato in Parlamento Io Sud, ma anche Noi Sud nell'attuale legislatura. 82 partiti dal 94 a oggi. Il secondo articolo interessante, molto interessante, di politica lo troviamo a pagina 6 del Fatto Quotidiano. Ieri Il Sole appunto raccontava quanti deputati e senatori rischiano di perdere la pensione perché da quest'anno, da questa legislatura, o fai 5 anni o ti attacchi al tram per il vitalizio dei deputati e dei senatori. Ebbene, Paola Zanca racconta, pensioni d'oro, la Camera non vuole cambiare, di come il 21 settembre scorso, una notizia che è passata un po' in secondo piano, la maggioranza alla Camera si è presentata compatta, sono arrivati 498 parlamentari, ne mancavano un centinaio, ma insomma erano in tanti, per una media di votazione non importantissima. Perché? Perché cosa si votava? Si votava una pratica che è stata sbrigata in 4 minuti e 49 secondi, una proposta di un deputato dell'Italia dei Valori, Antonio Borghesi, primo firmatario dell'ordine del giorno, che voleva di fatto abolire l'assegno vitalizio, la pensione ai deputati. Ovviamente, quiz, secondo voi, Antonio Borghesi con questa iniziativa ha avuto successo? 4 minuti e 49 secondi di discussione alla Camera, è stata bocciata. Parafrasando un celebre e straordinario libro di Staiano, insomma, potremmo dire un eroe Borghesi. Questo Antonio Borghesi, deputato dell'Italia dei Valori, primo firmatario dell'ordine del giorno, ha spiegato ai colleghi che non c'è nulla di demagogico in questa nostra proposta. Possiamo veramente fare in modo che i contributi trattenuti nelle buste paga dei parlamentari vengano versati presso l'ente previdenziale in base al lavoro che il deputato svolgeva precedentemente, cioè non perdete diciamo, i contributi. Se uno fa l'avvocato, diamoli all'ordine degli avvocati, se uno fa il giornalista, uguale. E se uno non ha mai fatto altro che il politico, l'INPS ha un fondo di gestione separata, quello che usano anche i co-co-co, spiega Borghesi. Si calcolano i contributi versati, si eroga la pensione di conseguenza, come per tutti i lavoratori del mondo. Ovviamente l'hanno bollato di populismo, demagogia, e quindi un eroe Borghesi, l'onorevole Antonio Borghesi, non ce l'ha fatta. 4 minuti e 49 secondi di discussione, proposta bocciata, e i vitalizi rimangono confermati alla Camera e anche al Senato, ovviamente. Ci sono poi ancora una serie di articoli che non sono politica, ma sono ormai il tormentone della casa Monte Carlo. Ancora Il Giornale titola in prima pagina: da Vespa, l'ultima conferma, la Tulliani dirigeva i lavori. Ieri Porta a Porta, che io non ho visto, c'era la testimonianza di una vicina di casa di questo appartamento Monte Carlo, di Giancarlo Tulliani, che ha detto: ho visto mesi fa una signora bionda estremamente appariscente che si occupava della ristrutturazione dell'appartamento. Dai giornali scoprì che era la compagna del presidente Fini. Per Il Giornale è l'ennesima prova. L'avvocato Ellero, invece, l'ex senatore leghista, tira in ballo dicendo che c'è implicato anche un ministro. Lo fa in un'altra intervista a Repubblica. È quello che dice: no, il proprietario della casa è un mio ex cliente, un mio cliente, che oggi tira in ballo forse anche un ministro, ma non, ovviamente, senza dire che cosa. E poi c'è Walter Lavitola, il direttore dell'Avanti, editore dell'Avanti, che a Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera fa una strepitosa intervista, da cui ripartiremo dopo il traffico. In primo piano. Il jet me l'ha pagato un amico dominicano, parla Walter Lavitola, l'uomo al centro anche delle polemiche per tutta questa vicenda tra Santa Lucia e Monte Carlo. L'editore, direttore dell'Avanti, inizia così la chiacchierata con Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. Allora dai, ci diamo del tu, siamo colleghi, no? E Roncone: io non sono sicuro di essere tua collega. Ah, perché? C'è un po' di gente che ti accusa di essere non solo il direttore dell'Avanti, ma un faccendiere, uno che vive di dossieraggi. E Lavitola si difende: ma no, io ho lavorato questa inchiesta da Ferragosto, io ho fabbricato la famosa mail che proverebbe, che secondo Lavitola prova, che l'appartamento è posseduto da Tulliani. Ma scherziamo? Ma sei arrivato alla famosa conferenza stampa del ministro di Santa Lucia con un tempismo sospetto. Ma io ero a Santo Domingo, la mia fonte mi ha avvertito. Ma sembrava che il ministro ti stesse aspettando. Questa è una balla. E insomma, va avanti così, dice. Anche questa mail, la mail in questione, quella tra James Wolfenzau e Michael Gordon, che proverebbe, secondo la Vitola, che l'appartamento è di Tugliani. Beh, stai dicendo che è un falso quella mail, che li avrei corrotti? Beh, è un'ipotesi, ma hai idea di chi siano quei due? Quelli sono incorruttibili. E così via, Walter La Vitola si difende, dice poi sì è vero, io faccio il giornalista, poi sono anche un imprenditore, ramo agroalimentare, costruzioni, tutto in Brasile. A proposito di Brasile, sei tu che hai organizzato a San Paolo una festa in onore di Berlusconi? Lo so che stai pensando, e cioè che era un festino, ma non è così. C'erano una quindicina di ospiti, altrettante persone della sicurezza e svariate ballerine di samba. Berlusconi si è divertito? Sì, parecchio. Parecchio, sì, parecchio. Tu sei molto amico di Berlusconi, sì, gli voglio sicuramente bene. E il jet me l'ha pagato un amico dominicano, si difende Walter La Vitola sul Corriere della Sera. Allora, prendiamo la prima pagina del Sole 24 Ore che mi sono perso. Eccola qua. La finanza. Come detto, le borse, mercati sprint, spese del dollaro, ma soprattutto io vorrei concentrarmi sull'allarme del Fondo Monetario Internazionale. Il debito minaccia il sistema finanziario, l'allarme viene da Washington, come racconta pagina 5 Alessandro Merli. Un sistema finanziario che resta il tallone d'Achille della ripresa economica mondiale. A aggravare questi problemi ha contribuito pesantemente negli ultimi sei mesi le difficoltà proprio del debito pubblico, soprattutto nei paesi europei. Sono queste le ragioni, ha detto il direttore del Dipartimento Mercati dei Capitali del Fondo, José Vinals, per cui non è tornata la fiducia sui mercati finanziari, che restano sensibili a sorprese negative e possono ripiombare rapidamente in uno stato di crisi. Parto da qui, dal Fondo Monetario Internazionale, per andare alla prima pagina dell'Unità, che oggi propone un tema molto molto interessante. L'Unità fa un'apertura un po' diversa, fortunatamente, rispetto a tutti gli altri quotidiani. Tassiamo chi specula. È un tema annoso, è un tema dibattuto, è un tema che sarà in discussione anche al G20 a Seul, credo. È un tema lanciato per esempio dalla Francia, cioè l'Unità ha deciso di lanciare una campagna di prelievo di una piccola aliquota sulle transazioni finanziarie, che può dare allo Stato quell'1,5% del PIL, l'equivalente, dice l'Unità, di tutti i tagli alla scuola. Tanto è vero che c'è a pagina 2 nel consueto editoriale, di solito firma il direttore Concita De Gregorio, questa volta è affidato a Stefano Fassina, un economista del Partito Democratico. Se non ora, quando? Questo è il titolo dell'editoriale. Ecco qui, l'Unione Europea può fare da apripista per mettere al centro del G20 di Seul a novembre una tassa sulle transazioni finanziarie dello 0,05%. Si rallentano le speculazioni di brevissimo periodo, si raccolgono risorse per gli investimenti produttivi. Ci sono già movimenti che da oltre un anno sono impegnati insieme a 1000 sindacati e associazioni. In Italia c'è 005.it che porta avanti questa iniziativa. Stefano Fassina dice: alziamo lo sguardo, se non ora, quando? E l'Unità racconta di questa idea rivoluzionaria. C'è anche l'ex sindaco di Firenze Leonardo Domenici, che oggi è europarlamentare a Bruxelles, che ha chiesto di farsi promotore del progetto. C'è un'intervista all'economista e docente universitario Paolo Leon a pagina 7, che dice: la proposta forse non passerà perché la strada è stretta, ma vuol dire che la finanza condiziona i governi. Insomma, questo tema della tassazione delle transazioni finanziarie, 0,05%. Voglio chiudere, ho un minuto, e voglio leggervi uno spaccato di una storia straordinaria che vi consiglio a pagina 16 della Stampa. La scrive poi il giornalista che io personalmente preferisco, Domenico Quirico, sulla Stampa. Nigeria, la caccia all'oro fa strage di bambini. 400 morti di saturnismo in sei mesi, forse di più, tutti bambini, tutti con meno di 5 anni, secondo Medici Senza Frontiere. È successo in 7 villaggi e bisognerà scriverli i nomi di questi villaggi: Abare, Sunke, Dareta, Tungardaji, Duza, Yargalma, Tungarguru, nell'interminabile lapide della tragedia africana. Questi innocenti sono stati uccisi da un sogno antico come l'uomo: l'oro. In 2 ore di fatica si estrae un grammo d'oro che si vende a $23, 50 kg di miglio, per cui occorrono 4 mesi di sudore e di buona fortuna, si vendono a $40. Giganti stanchi, patinati di polvere e fatica, torsi da gladiatori dentro maglie lacere, pantaloni a lembi, le loro donne curve sotto ceste smisurate, a portar via le pietre di un possibile miracolo da triturare ancora. Nel passo la solennità della stanchezza, come solo in Africa si può osservare, diffidenza negli occhi, sguardi che sorvegliano, perché questa raccolta è vietata dalla legge. È gente, in questo che è uno dei grandi formicai della razza umana, già scampata la malaria, la mosca zezzè, a 1000 malattie mortali, e ora l'oro perfidamente li uccide, perché è l'oro, o meglio la polvere dell'oro triturata, che ha ucciso giorno dopo giorno centinaia di bambini. Questa è la denuncia di Medici Senza Frontiere, affidata da Domenico Quirico alla Stampa. Ci fermiamo, votate il sondaggio, il partito degli immigrati. Che ne pensate? Radio24.it, ora il GR. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:23 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, protagonista della nostra intervista. È il presidente della provincia di Catania e anche il presidente delle province italiane, dell'Unione delle Province Italiane, Giuseppe Castiglione. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Allora, le istituzioni tra le più citate, le province, quando si parla di possibili risparmi, possibili tagli, e poi si dice si salvano sempre. Ieri Tremonti ha detto tagliare le province sarebbe un risparmio simbolico, 200 milioni di euro. Siete contenti, immagino? Noi è quello che abbiamo sostenuto. Intanto non si possono fare le riforme istituzionali, non si può dare al Paese un assetto istituzionale pensando di fare tagli, di fare cassa. Noi abbiamo in questi mesi non abbiamo fatto una difesa corporativa, in questi mesi abbiamo fatto valere le ragioni delle province. In questi giorni, io sono a Bruxelles in questo momento, la Commissione europea ha detto che quando si tratta di efficienza energetica, aver affidato un programma alle province è il risultato più significativo che hanno ottenuto in Europa. La verità è, quando si parla di cose concrete, quando si parla di servizi, quando si parla di viabilità, quando si parla di infrastrutture, di programmazione territoriale, non si può non pensare alle province. Però, Presidente, mi scusi. Era una polemica assolutamente strumentale. Lei dice. Oggi ci fa piacere che il Ministro, che devo dire che è stato molto attento sempre nei confronti delle province, ma soprattutto ne ha riconosciuto la funzione, la validità, molto spesso ha ritenuto, non a torto, che... anzi ha ragione, che le province servono, però mi scusi in altre sedi istituzionali, non certamente nelle province, ecco, in altre sedi istituzionali. Qualcuno dice questo è benaltrismo, cioè noi abbiamo le circoscrizioni, i comuni, le province, le regioni e poi lo Stato. Insomma, lei, visto che a Bruxelles, in Europa non è così a 5 livelli, no? Siamo un po' troppo. In Europa certamente c'è sempre un livello intermedio tra il comune, molto spesso troppo piccolo, e la regione, che dovrebbe fare legislazione, che dovrebbe pianificare a livello più vasto, ma c'è un livello di governo intermedio che è dato dalle province, che oggi tutti ne riconoscono l'utilità. Io le do solo alcuni dati. Negli ultimi tempi, per rilanciare le politiche attive sul lavoro nel nostro paese, il ministro Saccone ha firmato un protocollo con le province per rafforzare i centri per l'impiego. Il ministro dell'Ambiente ha firmato un protocollo con le province per dare la massima diffusione al programma di riduzione delle emissioni in atmosfera. Ma questo perché esistono? Sa cosa è emerso ieri in questo dibattito agli Open Days a Bruxelles? Che è emerso? Il 40% delle emissioni in atmosfera dipende dalla mobilità urbana e dipende anche soprattutto dall'edilizia. Fattori per cui, se si vuole recuperare questo gap, solo le province possono fare un programma. Però, Presidente, non è che se uno toglie le province queste competenze non vanno a nessuno, le faranno le regioni. Immagino 140.000 chilometri di strade provinciali, a chi li daremmo? Alla ad regione. Uno Stato così efficiente, oppure le daremmo ai comuni? La verità è che non si può giocare a sfasciare le istituzioni oppure gli assetti istituzionali, fermo restando che noi siamo per sederci attorno a un tavolo. C'è oggi una occasione straordinaria, che è il codice delle autonomie locali, dove si è fatto un gran bel lavoro alla Camera dei Deputati, si può migliorare al Senato il testo, dove si parla di assetto istituzionale, dove si parla di chi fa che cosa, si parla di comuni, così come prevede la Costituzione, di province, di città metropolitane. Perché non si avvia il dibattito sulle città metropolitane? Sì, però Presidente, si metta nei panni, voglio dire, un attento lettore che dice accorpiamo i comuni piccoli e non se ne fa niente, aboliamo le comunità montane e se ne fa qualcosa, aboliamo le province e non se ne fa niente. Cioè, No, io mi rendo conto, però se il dibattito venisse approfondito noi saremmo ben lieti di stare a questo tavolo e a questo dibattito, perché si renderà conto che non serve parlare dell'abolizione delle province che... sono 110 e soprattutto rappresentano quella entità ideale dove si può fare un programma, dove c'è l'identità culturale, dove si possono affrontare i temi dell'ambiente, oggi i temi delle risorse idriche, i temi dei rifiuti. A proposito, visto che si parla di rifiuti, perché non si va avanti ad affidare alle province gli ATO idrici e gli ATO rifiuti? Cioè, questa era una delle cose che era stata, la soppressione degli ATO era stata portata avanti da parte di tutti, era stata salutata a distanza di un anno, addirittura si parla di ritornare agli ATO e quindi tornare alle prove. Insomma, quindi servite. Questo paese il dibattito è sempre fatto a spizzichi e boccone, invece serve una riflessione approfondita. Io ritengo che un comune di 37 abitanti, noi abbiamo 2500 comuni sotto i 3000 abitanti, sono quelli forse che anche vanno 3000. Quelli vanno aboliti. Pensiamo alle aggregazioni dei comuni, le associazioni dei comuni, sia Lanci che Lupi, devo dire che hanno sempre manifestato la grande disponibilità a sedersi attorno a un tavolo e fare una riflessione seria su come meglio organizzare le nostre istituzioni. Va bene. Io nel ringraziarla, Presidente, la lascio a Bruxelles ai suoi impegni istituzionali. La ringrazio. Buona giornata. Giuseppe Castiglione, Presidente dell'Unione Province Italiane. Insomma, comincino i comuni ad accorparsi e poi magari le province. Un discorso che sentiamo da anni, ma sono sempre lì e vivono e lottano insieme a noi. Grazie, Presidente. Ci fermiamo per pubblicità e meteo. Poi il nostro sondaggio è questo: il partito degli immigrati. Voi che ne pensate di fronte a questa proposta? Perché a Milano c'è una lista civica che si presenterà di immigrati dicendo ci presentiamo alle liste alle prossime elezioni comunali. Ma poi ci sono dei partiti degli immigrati. È una via per l'integrazione? Vi chiediamo. Radio24.it per votare, oppure 800 24 00 24 se volete intervenire tra poco. 24 mattino. Le 8:34 minuti e allora noi parliamo di partito degli immigrati, nel senso la nuova iniziativa lanciata per le comunali di Milano da una lista che dice ci candidiamo anche noi, sarà una lista civica laica di immigrati, ha rilanciato il tema del partito degli immigrati. Vi chiediamo, secondo voi questa può essere una via per l'integrazione, il partito degli immigrati? Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Alle 8:35 minuti, eccoci qua. Partito degli immigrati, adesso dite la vostra. Titola così oggi La Padania. E saluto tra l'altro Igor Iezzi, che è segretario provinciale della Lega Nord a Milano. Oggi ha firmato anche sulla Padania questo articolo. Iezzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Così come voglio salutare Mustafa Mansouri, che è presidente di Nuovi Italiani, partito di immigrati, perché alcune esperienze. Buongiorno Mansouri. Buongiorno agli ascoltatori. Tra l'altro fa parte anche del Comitato per l'Islam Italiano del Viminale, del Ministero dell'Interno. Di queste iniziative c'è già qualcosa, perché già si dice partito degli immigrati. E Mansouri, per esempio, di che si tratta questa iniziativa vostra e come siete già presenti nelle istituzioni italiane in realtà? Allora, praticamente c'era la prima esperienza, l'abbiamo avuto nelle elezioni del 2006. Poi c'erano dei problemi con qualche partito con cui eravamo alleati, ma come sigle diverse di associazione, movimenti, eccetera. Dopo le elezioni ci siamo resi conto che dobbiamo costruire un soggetto politico che prende le cose in mano per gestire la cosa e il futuro. Appunto si chiama Nuovi Italiani, ma comunque la connotazione partito immigrati, ma solo per dar risalto ai problemi riguardanti l'immigrazione, perché volevamo far ponte tra le istituzioni e il mondo dell'immigrazione per una vera e una grande integrazione pacifica, una coesione sociale. E tra l'altro esprimete anche dei non so, consiglieri, cioè siete già presenti con vostri rappresentanti nelle varie istituzioni? Sì, ma comunque ci siamo presentati nelle elezioni comunali, locali, insomma, invece quelle regionali in cui c'erano le coalizioni non ci siamo riusciti per dei cavilli, non dico burocratici, ma di coordinatori dei partiti, perché... che volevano avere tutto, volevano avere i voti, i voti. Senza i nostri candidati. Volevano i voti, eccolo, siete già entrati nel meccanismo della politica, volevano i voti, volevano i numeri e non i vostri candidati. Beh, però insomma, esprimete già quanti consiglieri esprimete? Non so, siete in qualche comune, in che comune siete, per esempio? Mi faccio un esempio. No, purtroppo abbiamo prestato i candidati ai partiti, perché prima li abbiamo dato i voti, e sono dimessi da noi, si sono traslocati o nei vari partiti, come succede nelle camere adesso, come sta succedendo in Parlamento, è perfettamente chiaro. Allora, Igor Jezzi, cosa spaventa? Detto che io ho contattato ieri Abdelhamid Shaari, che è il responsabile, pare, di questa nuova lista, è il responsabile anche di Viale Jenner, la moschea cosiddetta, il centro islamico di Viale Jenner, che è l'animatore di questa iniziativa, e che ha detto no, per il momento non parlo, è sfuggita qualche notizia di troppo, bisogna fare le conferenze stampa, dobbiamo vederci, eccetera. Però faremo sicuramente questa cosa. Che cosa spaventa Igor Jezzi di questo? Ma io non conosco il partito degli immigrati, conosco Shaari. Shaari è il presidente di una comunità che fa capo alla moschea di al centro islamico di Viale Jenner. Centro islamico di Viale Jenner che a Milano ha regalato degrado, disagio, fastidi per i cittadini, ha regalato qualche imam condannato per 3 gradi di giudizio per aver inneggiato la Jihad, per associazione finalizzata al terrorismo, e ci ha regalato Game, che è l'attentatore della caserma Santa Barbara di Piazza Perucchetti. Non penso che, al di là delle sue dichiarazioni su una lista laica con italiani, penso che la sua lista continuerà il percorso da lui fino adesso avviato. Questo però quindi è una questione di una lista islamica che porterà solo dei problemi alla nostra città. Tra l'altro, la cosa che a me più preoccupa è il fatto che sia Shaari sia dalla stessa comunità islamica che fa capo a Viale Jenner non è mai partita una denuncia. Allora, io non penso che tutti gli islamici che frequentano la moschea, il centro islamico di Viale Jenner, siano terroristi, ovviamente. Quello che penso è che ci sia però una condivisione di massima su certi discorsi deliranti, perché se no una qualche denuncia sarebbe partita. Questo però, Jezzi, è quasi una questione, se vogliamo, personale, cioè legata alla persona, ma il principio in sé, cioè per esempio Mustafa Mansour rappresenta... Non è secondario, se Bossi fa un'iniziativa politica, evidentemente prosegue il percorso politico da lui iniziato, se Shaari fa una lista politica prosegue il percorso sociale da lui iniziato. Va bene, ma l'idea di un partito degli immigrati, per esempio nel nostro sondaggio il 76% però dice no, non aiuta l'immigrazione, non favorisce l'integrazione. Era una cosa che infatti volevo dire a proposito della lista degli immigrati e del rappresentante che sentivo parlare prima, che non conosco, però io sono preoccupato, insomma, se l'obiettivo è quello di un'integrazione da parte degli stranieri, degli immigrati che prima o poi devono fare un percorso di integrazione e diventare magari cittadini italiani, non credo che una lista di immigrati possa aiutare in questo percorso, cioè, o uno entra in partiti già esistenti, e tra l'altro, guardi, le dico, in Lega ce ne sono tanti, Io sono responsabile di Milano, abbiamo diversi stranieri integrati che sono diventati cittadini italiani, che fanno parte del nostro movimento, che sono iscritti e che sono militanti. Sì. Non ne vedo la necessità, cioè, fare entrare nei partiti, fare un partito nuovo, ma che abbia sempre una valenza italiana, milanese, lombarda, insomma, poi dipende uno dove veniamo un po', cioè Mustafa Mansour, qual è il senso di fare un partito che porti, come immagino, come programma, come piattaforma politica, quello di discutere di tutte le tematiche legate all'immigrazione? Cioè, non è meglio, come si dice, entrare nei vari partiti e lavorare in quei partiti sui temi dell'immigrazione? Non è più banalmente così? Ci siamo entrati, non è che non ci siamo, ci siamo entrati, ma purtroppo lo ribadisco, cioè siamo più di 1,5 milioni di immigrati e alla Camera ne abbiamo due. Mm. Cioè Valdaosta, che è una regione autonoma di 1 milione d'anime, vedi quanti parlamentari ci sono lì. Sì. Quello a livello locale può contribuire, perché contribuisce alla vita locale. Se noi siamo il senso dell'istituzione e rispettiamo la Costituzione italiana, se no non faccio parte io del comitato. Certo. Per non fare le moschee fai da te, l'imam fai da te. Esatto. A questo le proposito lei gestite, eccetera. È quello, vogliamo aiutare l'istituzione a avere un percorso adeguato, giusto, ma comunque i partiti dovranno aprirsi un pochettino verso quel soggetto. A questo proposito, lei cosa ne pensa dell'iniziativa milanese? Se ha qualche idea, nel senso, l'accusa è, ecco, si vuole continuare alcuni rischi di militanza estremista islamica anche per via politica. Lei che fa parte appunto del Comitato per l'Islam Italiano del Viminale. Devo essere molto cauto, voglio sapere che cosa c'è dietro, qual è carta di valori, qual è il loro programma. Perché le cose dette così, cioè lanci delle agenzie, non dici di tutto e niente. Le dice. Bisogna quindi bisogna avere un programma, una struttura. Noi siamo quasi 3 anni che stiamo lavorando a livello locale, territoriale, tipo, non voglio rubare l'idea all'amico della Lega, tipo Lega, lavoriamo sul territorio. Perché a noi ci interessa il territorio, migliorare l'acquisizione sociale, non avere conflitti. E per questo vogliamo anche combattere quel radicalismo islamico, perché ormai l'immigrato, soprattutto il musulmano, è quasi cioè fanno l'equazione quale terrorista. Invece vogliamo togliere questa macchia. Sì, tra l'altro non si capisce perché l'80% dei musulmani sono moderati, coloro che non parlano più, che non hanno. E purtroppo c'è qualche rappresentante dell'istituzione, eccetera, che fa gioco a questi a questi estremisti, quindi moschea sì, moschea no, pregare davanti al Duomo no, a Grosseto vogliono comprare una cinema per fare una mosca davanti a una cattedra, eccetera. E quindi, cioè, se le questioni non si prendono in mano, se non si fa, cioè, questo è il lavoro del Comitato per l'Islam, lavoriamo con Maroni, sì, con sì, certo, presidenti della prima commissione, eccetera. Quindi noi diamo delle proposte concrete per facilitare il lavoro sia dell'istituzione sia anche l'iter dell'immigrati. Tra l'altro, no, non si capisce perché quando si parla di partito di immigrati, ho parlato di partito di immigrati, subito si è arrivati all'Islam, ma anche perché a Milano l'iniziativa è legata appunto al centro culturale di Viale Jenner. Sentiamo se Marco da Bologna, prima del traffico. Marco, che ne pensa? Ci ha chiamato all'800240024. Salve, buongiorno a tutti. Dica. Io partito di immigrati, no. No, non perché ce li ho con gli immigrati, perché ho abitato in Nord Africa per lavoro, sono stato al Cairo, sono stato a Tangeri, conosco molto bene queste popolazioni, ho anche molti amici, perché non riescono a dividere la politica dalla religione. Ma lei vedi già parla per la sua esperienza personale. Gli immigrati sono anche, che ne so, i rumeni, i canadesi. Problema, io credo, in Italia, ho girato tutto il mondo, lo giro per lavoro, è che secondo me non siamo pronti a integrarci. L'integrazione in questo momento storico non c'è. Lei dice il no al partito, il no all'integrazione, cioè il partito non porta l'integrazione, non siamo pronti all'integrazione. Io vivo sul territorio perché lavoro sul territorio, sono laureato in sociologia, capisco i flussi, ma questi flussi stanno accelerando insieme alla tecnologia e il suo no è abbastanza chiaro e netto. Marco, la ringrazio, andiamo alle informazioni sul traffico e rientriamo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E allora il 76% per ora dice no, non è una via per l'integrazione. C'è chi ci scrive: gli immigrati non sono solo islamici, perché non la volete capire? Io continuo a dirlo, ma insomma è chiaro che poi ha preso questa piega. Leonardo da Taranto, buongiorno. Che dice? Sì, buongiorno a tutti. Senta, io ho ascoltato un attimino anche il radioascoltatore di prima. Sì. Non sono molto d'accordo, nel senso che anche io sono un infermiere, ho lavorato 10 anni a Torino, sono stato molto a contatto con questa comunità. Sono delle persone molto integrate, anche perché io adesso mi sono trasferito qui a Taranto, lavoro, sono infermiere, lavoro nell'assistenza domiciliare, entrando in tante abitazioni c'è praticamente una presenza che non Vabbè, lei dice vede. C'è integrazione, e il partito come lo vede? L'idea di un partito, una lista civica? Io lo vedo come una risposta, sì, il partito è una risposta alla mancanza di una politica che va invece, che dovrebbe invece un attimino... come dire, guardare un po' meglio ai problemi di queste persone che incontrano tutti i giorni come tutti noi, ma che non avendo risposta, non avendo nessuno che comunque li rappresenta, sì, a mio avviso si trovano costretti, costretti a organizzarsi a doversi organizzare per poter dar voce, anche perché essendo ghettizzati, essendo portati avanti solamente nel momento in cui succede qualcosa di la risposta è la politica. Dice la risposta è la politica. Vabbè, Leonardo, grazie. Torno da Igor Iezzi, mi faccia prima salutare Fabio De Lumè, che è il coordinatore milanese di Nuovi Italiani, il partito di immigrati, quello di Mustafa Mansouri. Magari ci dice qualcosa dalla prospettiva lombarda e milanese. Buongiorno De Lumè. Buongiorno a voi. Però vorrei Igor Iezzi. Allora, qui si pone questo problema. Io ho letto anche delle dichiarazioni, non so, Romano La Russa ha detto che porteranno i kamikaze. No, oppure l'ha detto lei, sì, porteranno i kamikaze in consiglio comunale. Distinguiamo le cose. Oppure allora, Romano La Russa cosa ha detto? Proporranno la lapidazione come... No, però distinguiamo le cose, perché sennò facciamo confusione. Sì. Allora, il signore che parla, il rappresentante della lista degli immigrati, ha detto cose molto sensate ed è molto diverso da Sciari. Sciari a Milano ha una sua storia ben precisa che porta a Game. Quello che ha detto il rappresentante degli immigrati è molto sensato, pure si ha detto una cosa secondo me molto grave, che è la chiave di interpretazione del problema degli immigrati. Lui nella sostanza ha detto: siamo 1,5 milioni di immigrati, in Parlamento non siamo rappresentati. Allora non è così, perché siccome votano i cittadini italiani, anche gli immigrati quando diventano cittadini italiani, loro sono strarappresentati, perché sono rappresentati da 945 parlamentari italiani che loro hanno contribuito a votare. Il fatto che non si sentano rappresentati da questi parlamentari che loro hanno votato e ne vogliono altri, questo dimostra evidentemente che la cittadinanza non è il simbolo di un'integrazione, non ma sono forse, integrati, o forse dimostra, se no si sentirebbero rappresentati. Io ho diversi immigrati, come dicevo prima, iscritti alla Lega, che si sentono rappresentati da me, dai parlamentari che abbiamo eletto, dai consiglieri comunali che abbiamo eletto. Ma forse non crede che vuol dire che un italiano, uno che diventa italiano però ha un non so, è nato in un altro paese, se va in Parlamento è più sensibile a certe tematiche rispetto che uno nato in Italia e cresciuto in Italia e italiano eletto? Questo forse Iezzi questo, è il significato. Sicuramente, ma nel momento in cui tu sei cittadino italiano dovresti pensare al problema dell'italiano. Sei diventato italiano, pensiamo agli italiani. Sei diventato cittadino italiano, ti candidi a Milano, pensiamo ai milanesi. O alle tematiche. Cioè, secondo me non... io penso, ma le tematiche dell'immigrazione fanno parte di un paese, cioè le politiche dell'immigrazione sono un tema importante. Che stiamo affrontando. Poi già il fatto di chiamarla lista degli immigrati, cioè, io non... al di là che siano islam, possono essere anche svedesi, ecco, parliamo degli svedesi, che così usciamo dal problema. Sì, esatto, cioè, se ci fosse una lista degli svedesi io non sarei contento, sebbene abbia una simpatia incredibile per gli svedesi, perché dimostra una mancata integrazione. Cioè, tu singolo svedese cittadino italiano vuoi farti, non ti senti rappresentato dai partiti, fai il partito democrazia socialista, che ne so, cioè, ti fai un partito nuovo di una teoria politica nuova e lo porti avanti. Vediamo un po', non so, fa riferimento a quelle tematiche degli immigrati, secondo me è il segnale non va di bene. Una mancata integrazione. Allora, Fabio De Lumè, italiano, no? Assolutamente, sì. Non ho capito. Buongiorno, Sandro. Buongiorno. Italiano, perché in questo partito di cui c'è Mustafa Mansouri come rappresentante, diciamo, nazionale, se vogliamo, Nuovi Italiani, Partito degli Immigrati, lei è il coordinatore milanese, insomma, fate parte anche italiani. Perché la necessità di esprimere un partito di immigrati? Cioè, voglio dire, ma guardi, è questo che un po' sfugge effettivamente. Direi che ha toccato esattamente il centro il signore che ha chiamato poc'anzi da Taranto, credo. Sì. E in sostanza è proprio la mancanza da parte delle istituzioni di farsi carico di quello che sono le problematiche dei cittadini immigrati, diventati anche italiani. Per quanto riguarda il quello che diceva poc'anzi l'ultimo signore che ha parlato, Igor Jezzi, segretario della Lega della provincia. Esatto. Beh, se esiste un partito come Lega Nord, non capisco perché non possa esistere un partito che rappresenta anche gli immigrati. A questo proposito vorrei far notare che nelle ultime elezioni regionali gli immigrati non hanno votato, in quanto mi ha fatto un comunicato stampa a livello nazionale dove si diceva agli impiegati di stare a casa oppure di andare a fare del volontariato quel giorno. Ma non ho capito perché se esiste la Lega deve... Certo che possono esistere tutti perché siamo in democrazia. No, perché è il fatto del questo continuare a battere il tasto su partito immigrati uguale partito islamico. Islamici. Vorrei ricordare che gli immigrati in Italia non sono solamente islamici. No, ma è chiaro, ma lì si riferiva alla lista civica che vuol fare il responsabile islamico della Yemen. La lista civica ho sentito. Che ne pensa di questa lista? Come diceva anche Mustafa Mansouri, ci andrei molto molto cauto. Per quanto riguarda, poi ovviamente viviamo in Italia, siamo un paese democratico, ognuno li può di fare quello che vuole. Però prima di dare qualsiasi giudizio su quello che è questa nuova lista civica, vorrei sapere qualcosa di più. Ma anch'io vorrei sapere qualcosa di più da lei, cioè perché è necessario fare un partito degli immigrati per portare avanti le legittime lotte politiche ed integrazione degli immigrati? Cioè perché è necessario fare un partito degli immigrati? È necessario, assolutamente sì, siamo ancora l'unico paese dove cinque anni di cittadinanza di vita sul territorio italiano, una persona non può ancora avere ad esempio il diritto di voto. Ma questo lo porta avanti anche Fini, guardi, se la velocizzazione, cioè è questa la questione, cioè non ho ancora capito perché dunque fare un partito. Il partito perché le istituzioni sono incapaci al momento, qualsiasi partito politico presente sul territorio italiano in questo momento non è in grado di rappresentare la popolazione immigrata. Prendiamo l'esempio di Milano. Milano, una moschea, io sono laico, provengo da una famiglia cattolica, mio padre è rifugiato politico, rifugiato di guerra, viene dalla Grecia, tempi della guerra, mia madre è nata a Bergamo, quindi conosco perfettamente il territorio milanese, il territorio bergamasco, bresciano, eccetera. Milano è necessario assolutamente una moschea, a parte il fatto che lo prevede la Costituzione, e il sindaco Moratti dovrebbe un attimino prendere una posizione. Vabbè, insomma, l'ha presa dicendo di no. Ma qua però usciamo un po' dal seminato. Ho capito, Jezzi, non c'è un partito che rappresenta le istanze degli immigrati e quindi è necessario un partito. Ma a parte che insomma, poi mi piacerà, siamo in democrazia, voglio dire, discutere con loro di programmi, nel senso che non vedo cosa c'entri la cittadinanza con una lista civica a Milano, giusto per intenderci, visto che stiamo parlando di tematiche che con Milano hanno poco senso. Ma questo è proprio il partito degli immigrati, loro sono il partito degli immigrati. È un partito nazionale che punta ad andare alle Camere, allora parleranno di cittadinanza. No, vabbè, a parte che loro il problema della cittadinanza non se lo dovrebbero porre, in quanto se votano sono già cittadini italiani, quindi insomma, da questo punto di vista loro sono già... Forse già... se la velocizzano sono più voti. Non ho capito. Se la velocizzano sono più voti. Ah beh, ecco appunto, quindi diciamo che sono già entrate nelle logiche della politica italiana, insomma, cosa fare per ottenere voti, non cosa fare perché giusto. No, a parte le battute, ripeto, allora abbiamo capito bene che c'è una differenza tra immigrati, insomma, il caso di Milano è a parte perché lo porta avanti Sciari, ma vedremo dove va, insomma, non è detto. No, ma è un tipo alquanto squalificato. Insomma, io prima parlavo appunto di lista degli svedesi per uscire un attimo da questo inghippo. Insomma, io se vado, mi trasferisco in Francia, divento francese, divento cittadino francese, faccio il mio percorso di integrazione, voto per un partito francese o comunque se non mi piace nessuno di quei partiti, ribadisco, mi faccio il mio partito che però non ha un riferimento all'Italia. Siccome io sono diventato cittadino francese, farò un partito che abbia riferimento alla Francia, che pone un cambiamento della Francia, non è che sto lì a preoccuparmi delle mie In ogni caso, io mi devo fermare qui perché stiamo finendo gli ultimi secondi. Vi ringrazio tutti, devo dire che sempre il 75%, 77% anzi salito, dice non aiuta l'integrazione. Ringraziamenti anche ad Antonella Migliaccio in redazione e Peter Bescapè in regia. La linea va a Oscar Giannino, noi ci siamo qui domani 24 mattino e tra radio24.it alle 7:20.